perché noi in realtà siamo un paese che negli ultimi anni fa un po' fatica a dare valore alle idee e dare valore al pensiero, cioè questa continua retorica del fare ci sta un po' rovinando, nel senso che fare è sicuramente molto importante, ma fare senza pensare è molto pericoloso, soprattutto se si ha appunto a dover competere con in realtà in economie molto simili alla nostra dal punto di vista del posizionamento competitivo, ma da questo punto di vista molto più capaci di investire, di creare spazi anche proprio di crescita professionale per chi vuole lavorare, diciamo, su tutte le filiere dell'immateriale. In realtà materiale e immateriale si intrecciano continuamente nei modi più complessi e imprevedibili, basta dire che oggi per esempio la moderna ricerca economica ci dice che nella testa di un consumatore che valuta un prodotto c'è molto di più tutto il mondo simbolico che è dietro questo prodotto, che le caratteristiche del prodotto in sé. Quindi non è semplicemente un problema di comunicazione, un problema di affascinare, è proprio la capacità di costruire un prodotto con delle modalità che lo fanno percepire come qualcosa di completamente diverso dai prodotti concorrenti. Ecco, da questo punto di vista noi per molti anni siamo stati bravi, ma la formula del Made in Italy di tipo tradizionale si è ormai largamente consunta, anche e soprattutto perché è in qualche modo finito per indicare una stagione della creatività italiana che però è finita e ha bisogno di un ciclo di rinnovamento, ha bisogno anche di una nuova ondata imprenditoriale di prima generazione. Credo che il Veneto da questo punto di vista sia ben attrezzato in realtà per rispondere a questa sfida, solo che deve cominciare a crederci davvero. Noi abbiamo in questo momento per esempio poche strategie per sostenere davvero l'imprenditoria creativa, che peraltro in alcuni settori, quelli che vengono poi proprio classificati ufficialmente come industrie culturali e creative, che in Europa sono trainanti, il complesso di questi settori, ricordiamolo, in Europa fattura oggi più del doppio dell'industria automobilistica, non vengono però considerati realmente strategici in Italia, nella quale si continua un po' ancora a pensare ai settori tradizionali come settori trainanti anche della nuova stagione di sviluppo.